Radio 24 Reportage. Migranti, l'accoglienza in Italia tra mito e realtà, di Valentina Furlanetto. Mentre Berlino apre le porte ai profughi siriani e Budapest si affretta ad ultimare la recinzione con la Serbia, cosa fa Roma? La rete d'accoglienza in Italia è gestita dal Ministero dell'Interno e si articola in 5 CIE, ossia Centri di Identificazione ed Espulsione, 14 CARA o Centri di Accoglienza, 1861 Strutture Temporanee di Accoglienza e 430 progetti del Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati. Diciamo subito che il numero di rifugiati accolti dall'Italia rimane modesto se comparato a quello di altri paesi in Europa e nel mondo. Così dice UNHCR, l'Agenzia ONU per i Rifugiati. In media, infatti, l'Italia accoglie un rifugiato ogni 1000 persone, ben al di sotto della Svezia, con più di 11 rifugiati ogni 1000, e della Francia, 3,5 ogni 1000. Ma torniamo all'Italia. Ad oggi, stando al Viminale, ci sono 95.000 migranti nei centri di accoglienza, ma l'emergenza non c'è. I dati più recenti aggiornati all'8 settembre del Ministero dell'Interno parlano di 121.964 persone sbarcate nel nostro paese dal 1 di gennaio, un numero pressoché identico a quello del 2014, quando all'8 settembre erano arrivate in Italia 121.244 persone, 1.000 in meno circa. Dove vengono poi distribuiti i migranti? La regione che sopporta di più il peso dell'accoglienza è ancora una volta la Sicilia, con il 15% delle presenze. Segue la Lombardia con il 13%, la Campania e il Lazio ne ospitano l'8%. Appena il 2% è andato in Trentino, Umbria, Molise e Abruzzo e solo lo 0,2% in Valle d'Aosta. In queste ultime regioni la presenza dei migranti rispetto alla popolazione è inferiore al 3%. Il responsabile dell'immigrazione al Viminale è Mario Morcone. Siamo sul trend dell'anno scorso. E per quanto riguarda invece l'accoglienza proprio sul nostro di territorio, ho visto che è scesa un po' in percentuale la presenza in Sicilia, che aveva una percentuale molto alta, però rimane comunque la regione che ospita di più, no? Col 15%. Sì. E poi ci sono regioni però dove la percentuale è molto bassa, molto risicata, mi riferisco al Trentino Alto Adige, la Valle d'Aosta, il Molise, l'Abruzzo, come mai? La vicenda della Valle d'Aosta è una vecchia polemica che c'è stata anche in televisione con il presidente della regione Valle d'Aosta che non dà disponibilità. Le altre regioni sono momenti naturalmente nei quali hanno maggiore o minore disponibilità di posti a seconda anche delle opportunità che si creano, delle gare che hanno fatto. Noi insisteremo e proseguiremo sulla strada del rispetto delle quote stabilite dalla conferenza unificata del 10 luglio del 2014. Quella è la regola e su quella regola noi ci terremo. A differenza di quanto avviene sulla rotta balcanica, che è sotto i riflettori in queste settimane, i migranti che arrivano in Italia scappano dall'Eritrea, una sorta di Corea del Nord piantata nel Corno d'Africa. Un paradiso che potrebbe prosperare con il turismo, che è stato però trasformato in dittatura da un governo che nega tutte le libertà civili e ogni libertà di espressione. Quasi 3 persone che arrivano in Italia su 10 sono eritree, il 26%. Segue la Nigeria con il 12% e la Somalia con il 7%. I siriani rappresentano solo il 6% del totale degli arrivi. Molti siriani che passano da noi non vengono fotosegnalati, anche perché essendo saltato Dublino in Germania non ci sarebbe neanche motivo di fotosegnalarli, a parte la loro resistenza personale a farsi fotosegnalare. E poi molti adesso passando per i Balcani, che è una via probabilmente meno rischiosa del canale di Sicilia. E per il resto è Africa? Afghani, iracheni e anche nigeriani che hanno questa condizione. E ci possono essere anche singole persone di altri paesi. Cioè sono tutte storie personali, mai storie collettive. E sono quasi tutti eritrei, anche i profughi arrivati in settimana al centro milanese di Via Tonale. Musi, I came from Eritrea. Yeah, all of them come from Eritrea. Mi chiamo Musil, dice questo ragazzo che abbiamo intervistato, ho 26 anni, vengo dall'Eritrea, sono arrivato da Taranto in treno. Siamo partiti dalla Libia, è stato un viaggio terribile in mare. Qui siamo stati accolti molto bene. Abbiamo avuto un pasto, abbiamo avuto la colazione, un letto su cui dormire. La vita nel mio paese è terribile. Bisogna fare il servizio militare a tempo indeterminato. È una dittatura, mi capisci? Poi il viaggio in mare. Ho avuto molta paura. A small boat. After that, we got a big one waiting for the boat. We wait from Libya 1 month. We cannot see outside. In Libia siamo stati nascosti per un mese in una struttura. Non si poteva guardare fuori, era molto pericoloso. Non siamo mai usciti. There is some terrorism here in Libya. You know, that name is Daesh. They don't love Christian people. They killing them. Now I start my life now. A Milano ci sono anche degli iracheni come Mohammed che sogna la Gran Bretagna. I like British. I don't like print. Voglio andare in Gran Bretagna, dice. Non voglio che mi prendano le impronte. Sì, sì, non voglio. Come lui anche Ahmed che sogna di andare a Parigi. Because my dream is British. And you? Paris. Nessuno in via Tonale vuole rimanere in Italia. Nessuno vuole essere identificato, perché secondo il regolamento di Dublino il luogo dove si è identificati è il solo dove poi si può chiedere asilo. Ed è questo che l'Italia sta discutendo a livello europeo, la possibilità di modificare il regolamento di Dublino. E c'è un'altra discussione che si sta facendo a livello europeo, ossia identificare i criteri per stabilire un diritto d'asilo europeo, perché al momento ogni paese ragiona a sé. Mario Morcone ancora una volta ci spiega che questa discussione ha trovato un muro in Europa finora. Noi durante il semestre di presidenza italiana, e non è un'opinione ma ci sono i documenti a testimoniarlo, ci siamo battuti fortemente per il mutuo riconoscimento. Naturalmente non c'è stato a sentire nessuno, purtroppo ci è voluto il bambino, il povero bambino a Bodrum, anziché i 70 morti sulla strada per Vienna, per far fare un salto nel cerchio di fuoco a chi pensava evidentemente che questo era un tema che non si potesse trattare. Al momento lo straniero che dimostri un fondato timore di subire nel proprio paese una persecuzione personale ai sensi della Convenzione di Ginevra può ottenere lo status di rifugiato. Mediamente nei paesi europei nel 2014 è stato accolto il 44% delle domande d'asilo esaminate, in Italia il 58%. Se il tribunale nega lo status di rifugiato, scatta l'espulsione per lo straniero. Espulsione che è a carico dello Stato e che ha costi molto alti. Per ogni cittadino straniero rimpatriato, lo Stato italiano paga 5 biglietti aerei, quello dello straniero, quelli di andata e ritorno per 2 agenti che lo scortano. Per non parlare poi delle compensazioni che vengono date al paese con cui si fa l'accordo, che a volte sono molto salate. Anche su questo l'Italia sta discutendo perché i rimpatri vengano fatti a livello europeo. Torniamo in via Tonale. La situazione dei profughi è tornata complicatissima a Milano, come denuncia l'assessore alle politiche sociali del comune, Pierfrancesco Maiorino. Dal 18 ottobre del 2013 abbiamo assistito e accolto per alcuni giorni, perché arrivano qui, stanno qui un po' di giorni, di settimane, poi se ne vanno, 77.000 persone, di cui 15.500 bambini. Questo è, diciamo, il lavoro che ha fatto Milano sin qui. E in questi giorni siamo tornati a punte di arrivi importanti, più di 1000 in 3 giorni, una presenza media di 1200 persone a notte, e con i centri quindi strapieni, abbiamo dovuto aprirne uno in più, abbiamo adibito un'ex scuola a centro d'accoglienza in questi giorni in via Martinelli, cosa che vogliamo fare però solo per poche settimane perché non è per noi una struttura idonea. E poi in più l'aggravante è che questo è reso anche difficile dal fatto che il Ministero dell'Interno ci ha mandato qui 300 richiedenti asilo. Ora, noi ci occupiamo di quelli in transito da sempre a Milano, quindi quelli che ai sensi delle regole di Dublino non chiedono asilo perché in Italia non vogliono rimanere. Il governo in più ci ha messo i richiedenti asilo. E la scuola che lei prima citava è quella di via Martinelli, no? Sì. Che però è destinata alla demolizione per la presenza di amianto. Sì, sì, certo. Quindi per questo lei diceva non è adeguata, ma sì, verrà utilizzata? Sì, per mille ragioni. Sì, sì, è già utilizzata. Non è stata già utilizzata, diciamo che noi abbiamo su quell'edificio come su altri, abbiamo la certificazione del fatto che per un utilizzo di alcune giornate, questo non è un problema, non diventa un problema, non comporta problemi per la salute, dopodiché deve essere demolita, ma al di là di questo c'è proprio un problema di ripartizione nazionale. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.